Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Tremavo, pensavo che a qualcuno fosse venuta la simpatica idea di partire con una canzone sulla Befana dedicandomela. Ma no, ma Deborah, guarda, ma perché devi sempre essere così... In malafede. Esatto, ma mi veniva da dire proprio così, malfidente, malfidente. Maliziosa. Invece hai visto, tu con la Befana hai avuto il mio rientro qui in studio. Dentro sono ad stato, una calza, esatto. Sì, una calza un po' ampia, diciamo. Extra large. Esatto, e la Befana mi ha depositato qui in studio con te per tornare insieme a condurre Due di Denari. Buon anno. Buon anno, perché questa è la prima puntata effettivamente finalmente dell'anno che conduciamo a due voci. Esatto, e soprattutto a team completo anche con Marco Lombardo, perché qua ci siamo un po' separati tutti e tre in questi giorni e adesso finalmente ritorniamo tutti insieme. Allora, perché abbiamo intanto aperto questa puntata con questa canzone che parlava dei giorni della settimana, ancorché in lingua inglese? Allora, perché vogliamo riproporre ai nostri ascoltatori, soprattutto a quelli che magari non si saranno accorti e a cui questa notizia sarà sfuggita in questi giorni, volevamo raccontare quello che è venuto in mente alla neo premier finlandese, questa giovanissima di 34 anni, Sanna Marin, che spero peraltro di averlo pronunciato correttamente. Com'è? Sicuramente l'abbiamo sbagliato, non ti preoccupare. Cioè, in finlandese Marin, anzi, voglio vedere come si pronuncia. Guardate, 80024 ecco. 0024, anche nel 2020 i numeri sono gli stessi, questo per la diretta. Oppure 349 238 6666 per i messaggi WhatsApp o SMS. Se qualcuno sa non solo il finlandese ma anche la corretta pronuncia della premier finlandese, con sì, la quale esatto, ci scusiamo già in anticipo, ce lo può comunicare e noi lo manderemo in onda. Partiamo a noi risulta Sanna Marin, però non ci sbilanciamo. Con la sfida lingue, non la diciamo alla veneta, Marin, Sanna Marin, no, direi di no. Allora, che cosa ha proposto? Ha proposto la signora una settimana lavorativa di 4 giorni, di 6 ore ciascuno, con nello stesso stipendio. Questo potrebbe essere il prossimo passo per la Finlandia. 8 ore, ha detto, sono davvero l'unica scelta possibile. Credo che le persone meritino di trascorrere più tempo con le loro famiglie, con i propri cari, dedicandosi agli hobby e agli aspetti della vita di altro tipo, come la cultura, e quindi questo potrebbe essere il prossimo passo per noi. Questa è la priorità della sua agenda politica e di governo e quindi sarà molto interessante seguire appunto i passi che farà questa neo premier e se magari in qualche maniera rappresenterà anche un modello per altri paesi dell'economia appunto dell'Eurozona, che magari vogliono cimentarsi con una proposta del genere. Guarda, io non vorrei che da una parte questa proposta poi fosse di fatto così anche una approvazione per coloro che la settimana se la sono già magari un po' autoridotta. C'è gente che è presente sul posto di lavoro ma di fatto lavora e riesce già a lavorare anche 4 ma anche 3 ma anche 2 giorni. Allora, tu mi hai già battuto in malizia stamattina, te lo dico. Però ti voglio dire invece una cosa seria. Noi avevamo già parlato proprio qui a Due di Denari di Microsoft, che esatto, ha provato a fare la stessa sperimentazione, cioè ha ridotto nella sua sede di Tokyo la settimana lavorativa di un giorno per una parte ridotta dei dipendenti, 2300, quindi non tutti i dipendenti di Microsoft, però hanno verificato che la produttività è aumentata molto, del 39,9%, e ovviamente i costi aziendali si sono ridotti, nel senso che una minor presenza sul posto di lavoro comporta anche poi minori spese, risparmi di luce e tanto altro. Ma veramente anche la Svezia ha già sperimentato una strada di questo tipo. La giornata di 6 ore funziona già nella vicina Svezia, che è vicina nel senso vicino alla Finlandia. Nel 2015 Göteborg, la seconda città più grande di questo stato, ha ridotto l'orario di lavoro a 6 ore al giorno nelle case di riposo e nell'ospedale municipale, senza variazioni allo stipendio dei dipendenti. I risultati nel giro di 2 anni parlavano già chiaro: personale più felice, più sano e più soprattutto più produttivo. Che bella idea anche per il nostro ufficio del personale, gliela lanciamo così come prima idea del 2020. Sì, esatto. Anche intanto, perché io sto parecchie ore qui dentro, ma tu mi superi di gran lunga, per cui ma non d'altro è vero. Tu sei padano proprio fino al midollo, quindi molto produttivo. Ma non è vero, sono tutte dicerie. Sappi però che in Svizzera stanno sperimentando una cosa ancora diversa, sempre per parlare di lavoro, ma non è mercoledì oggi. Vabbè, parliamo tantissimo di lavoro. Però queste sono un po' tutte notizie dei giorni scorsi, arretrate. Noi vogliamo fare riassunto delle puntate precedenti per tutti coloro che le avessero perse. Noi, Due di Denari, con il nostro consueto spirito di servizio e con autorevole leggerezza, come sempre, le ribadiamo tutte. Allora, in Svizzera cosa stanno facendo invece? Una cosa assolutamente diversa, cioè riconoscono agli impiegati federali il tragitto casa ufficio come orario di lavoro. Qui non si tratta solo di dare una copertura, la cosiddetta copertura in itinere, come dicono i legali, ma proprio il fatto che spesso in quel lasso di tempo, cioè nel tragitto casa ufficio, specialmente i pendolari lavorano di fatto. Sì, oltre ad avere l'esaurimento nervoso per il traffico, i blocchi e quant'altro. Perché oramai con gli smartphone e i vari device, i tablet e così via, è chiaro che si può lavorare in mobilità. E allora hanno deciso, gli svizzeri però, non noi, gli svizzeri, di riconoscere questo tragitto casa ufficio dal 1 di gennaio per gli impiegati federali come orario di lavoro. Detto tutto ciò premesso, come tu dici sempre, quale sarà il tema portante prima delle notizie in breve, prima di Meteo Borsa, anzi no, dopo Meteo Borsa e dopo le notizie del giornale Radio del Risparmio, il temone di esordio del 2020 di Due di Denari con la coppia ricostituita? Allora, partiamo dalle cose basiche. Sì. Hai preso Befane, il sole, bambini. Esatto, hai preso il Sole 24 Ore di questa mattina. Ma ci mancherebbe altro. Ecco, hai religiosamente sfogliato dalla prima all'ultima pagina, comprese le pagine di norme e tributi. Certamente, perché ho trovato tante cose interessanti e ho deciso di soffermarmi per la precisione a pagina 2. Ah, proprio da subito hai trovato una cosa interessante, dove si parla di assegni al nucleo, premio alla nascita, bonus bebè e bonus nido, la dote può arrivare a 9.000 euro annui, ma regole e procedure diverse penalizzano i nuclei. Questo è il, come si chiama questa parte qui dell'articolo in genere? Quello lì è un occhiello. Un occhiello, esatto. Si parla praticamente di tutte le iniziative. La parte sopra, lo diciamo a beneficio degli ascoltatori, sopra questo, il titolo, l'occhiello. Esatto, praticamente oggi parleremo di tutte quelle iniziative pronte a partire, appunto, che sono state inserite nella manovra di bilancio del 2020 e che teoricamente dovrebbero sostenere le famiglie italiane con iniziative economiche di vario tipo, con l'obiettivo di favorire la natalità nel nostro paese, quindi tra sostegno diretto alle famiglie, bonus per mandarli all'asilo, per mandare i bambini all'asilo nido, e c'è anche l'incentivo economico per l'acquisto del latte e quant'altro. Oggi facciamo un po' proprio tutto un affresco di tutte le iniziative pronte a partire. Se ne è parlato molto in queste settimane perché la manovra punta, ha detto dichiaratamente, di puntare sulle famiglie, sul sostegno alla natalità, sulle famiglie con figli. E allora, sul Sole 24 Ore del lunedì, una disamina di tutte le varie dei vari bonus, i vari aiuti che sono disponibili. Come segnalano le colleghe subito, Michela Finizio e Valentina Melis, sono bonus anche complicati da gestire insieme, esatto, perché ognuno ha procedure diverse. Sono quasi tutti già operativi, non tutti sono già operativi, e poi la manovra promette anche di arrivare ad una sorta di assegno unico per la famiglia, che però dovremo aspettare di vedere alla fine di questo 2020. Diciamo che non è arrivata la famosa cancellazione delle rette per gli asili nido che il ministro Gualtieri aveva promesso. C'è una rimodulazione però delle rette degli asilo che in qualche maniera sono diventate per alcune fasce reddituali un po' più convenienti, però ecco, la cancellazione in toto non è stata possibile e c'era sembrata effettivamente una promessa un pochino azzardata. Naturalmente poi a tutto questo coacervo, a questo mosaico di aiuti, di agevolazioni, di sostegni vari, bisogna aggiungere quello che viene erogato localmente sui territori, dai comuni o dalle regioni, perché alle volte questo tipo di aiuti fa sì che poi non si abbia diritto all'aiuto nazionale. Ma tutto questo ce lo spiegherà un esperto di valore mondiale, che che è anche un collega del Sole 24 Ore, che sarà nostro ospite dopo Meteo Borsa, dopo le informazioni sui mercati finanziari che sono nervosetti per le questioni internazionali, soprattutto cioè la tensione appunto tra Stati Uniti e Iran. I numeri di telefono li ho già ricordati, vuoi ricordarli una seconda volta, ma Deborah? Sì, dai, magari, che ne so, queste vacanze con tutto il panettone che ci siamo mangiati hanno determinato delle amnesie. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, il 349 238 6666, e invece il numero per inviarci dei messaggi, possono essere degli sms, possono essere dei messaggi su WhatsApp scritti e vocali. Non sono totalmente certa se siamo ritornati sul Facebook. Oh, come mai? Perché potrebbe non esserci ancora una copertura video adeguata. Esatto, infatti non c'è, però allora niente, non è, in ogni caso, se volete andare sul nostro profilo, Marco Lombardo è sempre lì pronto ad arricchirlo con tutte le notizie della giornata che riguardano in particolar modo il nostro contenitore, la nostra trasmissione. Ma siamo anche sul Twitter poi, assolutamente. Non ci facciamo mancare nulla. Allora, mi toglierei subito sto sassolino dalla scarpa, Sassolone Mauro, oggi, il mercato proprio parte male questa settimana, d'altronde ce l'aspettavamo. Ma adesso ci facciamo spiegare subito tutto dal nostro esperto. Via. Meteo Borsa. E allora, dare le cattive notizie stamattina tocca, quantomeno a spiegarcele, ad Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte SIM. Buongiorno, buon anno e ben ritrovato a Due di Denari. Buongiorno a voi e buon anno. Allora, d'altronde lo si sapeva che era un anno bisesto, Cesarano, per cui meno 1,65 Piazza Affari, meno 1,18 Parigi, meno 1,65 Francoforte, che fino a poco fa perdeva quasi 2 punti. Londra è ribasso di 1 punto, Asia tutta negativa, vedremo oggi cosa succederà a Wall Street, ma le avvisaglie non sono per nulla promettenti. Petrolio, che naturalmente continua, ripreso a correre, oro ai massimi da 7 anni a questa parte, persino il palladio ha raggiunto il record di $2,000 che non aveva mai toccato prima. Le ragioni le conosciamo, quanto conta anche un po', non dico l'astrologia, l'anno bisesto, la scaramanzia verrebbe da dire, no? Esatto, anche perché lei è napoletano, giusto? Dico bene? Sì, sono napoletano e vabbè, volendo arrivare a lavorare sulla scaramanzia, aggiungerei che è un anno che ha 3 benedetti 17, però detto questo, togliamo la scaramanzia, insomma. È un anno che è partito, diciamo, con le tensioni geopolitiche che erano un po' una variabile che negli scenari di rischio, di consenso di fine anno scorso, in genere è una variabile inserita in maniera più minoritaria, era molto più visto come minaccioso il tema della guerra commerciale. Infatti, e invece diciamo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ci ha abituato peraltro alle sue prese di posizione inattese, un po' a sorpresa, questa volta ha decisamente sorpreso tutto il mondo, perché con questa decisione appunto dell'intervento sulle mani ha scombinato un po' tutto quanto. Questo è il motivo per cui i mercati sono in questa condizione che ci diceva Deborah, cioè tutti con cali vistosi? Sì, un po' un contropiede, nel senso, Trump lo scorso anno aveva annunciato una politica di abbandono un po' dell'area medio orientale, un po' di disimpegno militare. A ben guardare però, da maggio scorso aveva però ammassato diverse truppe, circa 17.000 proprio in Iraq. Quasi a presagire un'eventuale ritorsione, attacco contro la stessa Iran, visto che la Turchia non è più affidabile da un punto di vista geopolitico con Erdogan per gli Stati Uniti. Quando è arrivato questo attacco è stata scelta di fatto la opzione più forte per in qualche modo provocare l'Iran. L'impressione è come se il presidente Trump volesse in qualche modo provocare l'Iran e quasi stimolarla a un attacco per presentarsi poi internamente come il comandante in capo che dovrà coordinare l'eventuale controreazione degli Stati Uniti, che già Trump ha preannunciato durante il fine settimana dicendo: bene, all'Iran attenzione, se mi attaccate sono pronta a ritorsione. Allora, intanto Cesarano, però da quello che vediamo questa mattina, con un calo così pronunciato, quello che possiamo interpretare è anche che gli operatori a questo punto sono un po' più convinti che questa famosa escalation possa essere davvero più veloce e dalle dinamiche appunto più preoccupanti di quanto magari non si immaginasse fino a venerdì. Anche venerdì abbiamo avuto una giornata contrastata che è stata in calo per gran parte della sua durata, poi sul finale si è risollevata, come a dire adesso vediamo un po' po' come procedono le cose. Intanto qualcuno in cassa porta a casa un po' di guadagno realizzato lo scorso anno, perché il 2019 sui mercati è stato decisamente buono. Oggi invece il clima è tornato assolutamente, appunto, condizionato dal pessimismo. Un pessimismo che peraltro si riflette sui titoli del settore bancario, a Piazza Affari e sulla tecnologia, mentre naturalmente tutto l'ambito difensivo sale, a cominciare da Eni, che è il miglior titolo ed è l'unico positivo in questo momento a Milano, e guadagna l'1,52%. Quindi prese di profitto ormai superata, adesso il clima è proprio più convinto che la situazione possa degenerare, forse. Sì, perché poi venerdì, insomma, è stata la prima reazione un po' a freddo, a caldo, diciamo, durante il fine settimana. Poi le dichiarazioni, anche le stesse decisioni che sono arrivate dal lato iracheno, in particolare il Parlamento iracheno ha invitato il governo a far fuoriuscire tutte le truppe straniere, quindi comprese quelle statunitensi, le famose 17.000 truppe in più che erano state ammassate da Trump da maggio in poi. Questo ha irritito anche lo stesso presidente statunitense e acuisce ancora di più il clima di tensione, e in più tutti i vari tweet di Trump in cui si è detto pronto a ritorsioni, indicando 52 siti obiettivo da colpire nel caso in cui l'Iran dovesse in qualche modo reagire. Rimaniamo sui temi economico-finanziari, Cesarano. In ogni caso questa è una settimana che vedrà la ripresa a pieno regime dell'attività sui mercati dopo la festività natalizia. Peraltro ci sarà anche la riapertura del Parlamento inglese, l'inizio del dibattito in merito all'approvazione dell'accordo con l'Unione Europea. Quali altri argomenti saranno destinati a catalizzare l'attenzione degli operatori oltre a questo grande scenario, appunto, geopolitico del Medio Oriente? Sì, innanzitutto nel corso della settimana avremo diversi discorsi di molti membri della Fed, tra cui alcuni membri votanti. Cercherà un po' di comprendere qual è la reazione della Fed di fronte a una variabile geopolitica che diventa molto più surriscaldata. Le prime dichiarazioni di qualche membro Fed la scorsa settimana lasciavano intendere la possibilità che, laddove ci fosse davvero una escalation, la Fed è pronta a reagire, a tornare in campo, probabilmente anche rendendo semmai permanente la liquidità che ha già iniettato, ma ha iniettato tra fine anno e inizio anno in chiave temporanea, potrebbe renderla strutturale. Questo sarebbe una prima reazione, oltre all'eventuale ripresa del taglio dei tassi. La seconda cosa è vedere un po' lo stato dell'economia statunitense. Venerdì avremo i dati sul mercato del lavoro statunitense, sì, di dicembre. E cercare un po' di capire se fanno un po' pandan con le indicazioni non positive che sono arrivate dal comparto manifatturiero negli Stati Uniti. A dicembre l'ISM, quindi i sondaggi fatti dal direttore dell'area acquisto, hanno segnalato una situazione ai minimi da giugno del 2009. Quindi è molto importante avere un po' il termometro di quello che, soprattutto, la reazione della Fed, visto che ha in mano una manovra non da poco, per quanto un po' spuntata rispetto al passato, cioè iniezioni forti di liquidità. E poi parte ufficialmente il 2020 con la campagna elettorale americana. Sono sicura che anche da questo punto di vista ne vedremo delle belle, ne sentiremo di interessanti. Grazie ad Antonio Cesarano, Intermonte SIM, per essere stato con noi. Buona giornata, buon anno, e anche buon grazie anno del topo, che è quello dell'oroscopo cinese. L'ultima volta lo era stato nel 2008. Cesarano adesso non l'ha detto, ma in privato prima mi aveva detto che anche questo, come dire, condizione scaramantica, è interessante. Meno male che non ha parlato di calcio, perché stasera c'è anche uno scontro diretto tra, immagino, la sua squadra e la mia, e quindi non era proprio l'atmosfera. Grazie ad Antonio Cesarano. Buona giornata, adesso le altre notizie di oggi. Drin drin, edicola risparmio. L'anagrafe tributaria, la nostra grande amica. Quella soprattutto amica degli avvocati che si occupano di separazioni e divorzi. Allora, qui è stato ribadito, ma anche questo viene dal prezioso contributo del Sole 24 Ore di oggi, pagine di norme e tributi. Separazione e divorzio, accesso libero ai conti del coniuge. Ora qualcuno dirà, beh, ma cosa cambia? Perché è già così, cioè quando ci si separa non possono essere opposti, lo avevamo segnalato anche nei mesi passati in altri prodotti dedicati editoriali qui del Sole 24 Ore e poi qui a Radio 24. Quando ci si separa, il coniuge, l'ex coniuge, può chiedere appunto di avere piena visibilità sui conti, sull'andamento economico dell'altro. E però evidentemente non tutto era così chiaro, c'era giurisprudenza ancorché minoritaria ma resistente sul punto. E allora che è successo? È successo che ci sono stati due interventi del Consiglio di Stato che hanno detto: questa vicenda va senz'altro interpretata come non ci possono essere limitazioni, non è questione di privacy, non c'è questione di sorta, non ci possono essere limitazioni. Quando c'è separazione ci deve essere trasparenza dal punto di vista delle attività economiche. Ne riferisce dottamente, come sempre, Giorgio Vaccaro, pagina 17 del Sole 24 Ore di oggi. Tanto per restare sulle questioni scaramantiche, sono andato in pagina 17. Allora, venerdì scorso, tu non c'eri, ma ci siamo occupati a Due di Denari, oltre che di saldi, anche di quella situazione che riguarda tutte quelle persone che a cavallo tra Natale e Capodanno hanno dovuto viaggiare percorrendo in particolar modo quel tratto famigerato che è diventato veramente un trauma percorrerlo, tra Fermo e Pescara, perché hanno dovuto sopportare moltissime code, ore di disagi, in quanto alcune parti appunto di questo tratto sono poste sotto sequestro dalla GIP di Avellino per tutta un incidente appunto molto grave che si era verificato negli anni passati. Adesso non stiamo a riesumare quella vicenda. Qual è la novità? Avevamo detto con Furio Truzzi di Assoutenti, chiudendo la trasmissione, ma passerà in cavalleria questa situazione oppure è possibile ipotizzare per le persone che sono rimaste vittime di questa situazione in qualche maniera, dovendo stare lì bloccate in autostrada per un sacco di ore, un indennizzo, un risarcimento, un qualche meccanismo appunto risarcitorio? Ebbene, Autostrade per l'Italia avrebbe attivato un piano straordinario per assistere ed informare gli automobilisti nei giorni di rientro dalle festività in cui è previsto traffico autostradale intenso in direzione nord a causa dei viadotti sequestrati appunto dall'autorità giudiziaria sulla A14, in particolar modo fra Vasto, che è provincia di Chieti, e Porto Sant'Elpidio. Il Ministero dei Trasporti e gli enti interessati sono stati allertati dalla società, fatto sapere ASPI, e in caso di code significative per i restringimenti, dall'8 gennaio adesso sarà possibile addirittura chiedere rimborsi del pedaggio lungo le tratte A14 oggetto dei sequestri. Quindi gli automobilisti che dovessero subire ritardi significativi nei tempi di viaggio lungo queste tratte, spiegano appunto in una nota gli funzionari della concessionaria, potranno inviare una richiesta di rimborso alla casella di posta elettronica info@autostrade.it allegando copia dell'attestato di viaggio. Quindi fatelo, raccontateci se poi la richiesta è andata a buon fine e magari torneremo di nuovo anche noi sulla questione, per cui non so se abbiano ascoltato noi venerdì, Mauro, però di fatto è un'iniziativa risarcitoria a parte. E allora speriamo che magari sia anche la prima di una serie di iniziative risarcitorie. Ci sono state iniziative anche nell'area che interessa la Liguria e il Piemonte, anche lì per problemi appunto. Da una parte c'è stato un crollo su una tratta autostradale, dall'altra abbiamo visto proprio dei danneggiamenti in galleria, anche lì lunghe code, disagi per i viaggiatori. Vediamo se questo approccio di Autostrade per l'Italia si generalizza in qualche modo a favore degli utenti del servizio. Allora, spostarsi in Italia in questi giorni è complicato, che ne dici di trasferirci all'estero? Allora sì, però prima porto con me la guida dell'esperto risponde oggi con il Sole 24 Ore. Perché, non me lo sarei mai aspettato. Eh sì, perché qui si tratta proprio del trasferirsi all'estero, quindi quello che comporta sia per chi ci va per lavoro e quindi si trasferisce all'estero per andare a lavorare altrove, sia chi invece ci vuole andare perché ha smesso di lavorare, cioè da pensionato. I due aspetti sono citati entrambi nella guida oggi in edicola con il Sole 24 Ore, e tra l'altro c'è anche un cenno ovviamente per chi volesse rientrare dall'estero. Gli autori sono Antonio Longo, che è una voce nota al pubblico di Due di Denari. Un grande amico di Due di Denari. Allora, buone notizie, Mauro, speriamo, per alcune delle vittime dei recenti crack bancari. Peraltro sai che è scoppiata in questi giorni il caso della Popolare di Bari, sulla quale dovremo necessariamente ritornare prossimamente, ma oggi ritorniamo invece sulla questione delle Venete. Troppi ritardi nella consegna della documentazione necessaria, troppe lunghe lungaggini burocratiche. Questa è la denuncia che ha lanciato qualche settimana fa l'Associazione dei Consumatori Adico in relazione alla vicenda dei risparmiatori traditi dalle popolari venete. L'associazione segue circa 150 soci vittime delle popolari. Aveva già raccolto le preoccupazioni di molti cittadini in difficoltà nel reperire da Banca Intesa San Paolo, gruppo subentrato alle due banche, le carte necessarie per accedere al fondo di indennizzo per i risparmiatori, il famoso FIR, e recuperare almeno quel 30% di investimento bruciato nel crack della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. In questi giorni che cosa è successo? Che il governo, raccogliendo le difficoltà denunciate da Adico e da molte altre associazioni dei consumatori, ha deciso di rinviare i termini per la presentazione della domanda, inizialmente fissati per febbraio. Ora, con la legge di bilancio 2020, il tempo per presentare la richiesta di indennizzo è stato rinviato appunto al 18 aprile 2020. Tutto ciò premesso, andiamo con la nostra rubrica, poi ci aggiornerai sui mercati finanziari. Ma molto volentieri. Vorrei ricordare che nella seconda parte ci occuperemo di bonus per la famiglia, bonus per i nuovi nati. Ci ha raggiunto in studio un esperto di valore mondiale, che è Matteo Prioschi, collega del Sole 24 Ore. Non so quanti figli ha, glielo chiediamo. Due Matteo. Due figli per Matteo Prioschi. Bene, allora sarà interessato probabilmente anche lui. Insomma, non credo, vanno fra un po' alle università le figlie di Matteo. Allora, prima di tutto questo, dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno, allora, sono Dario da Milano. In merito al discorso della Doggy Bag, quando lavoravo e gestivo praticamente come restaurant manager un locale proprio in zona Piola, era nostra consuetudine, proprio per evitare che si sentissero a disagio i clienti, nelle situazioni dove la pietanza avanzata era enorme e giustamente i clienti in quel caso la dovevano pagare, chiedere a loro se erano interessati a portarsi a casa una doggy bag. E devo dire che tale politica aziendale ha pagato e i clienti erano sempre contenti. Quindi direi che dovrebbe essere, come dite voi, che sia prassi comune. Ma invece di doversi portare a casa quello che non si è mangiato, ma perché non si ordina con un po' più di coscienza? Uno ordina le cose giuste, se le mangia tutte non ci sono sprechi. La finanza è poesia. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroën C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Info su citroen.it. Citroën. Due di denari. Io quando andrò in pensione mi trasferisco alle Canarie. Mi lasciassero anche i soldi per un panino in riva al mare piuttosto che star qua, ragazzi. Allora, mamma mia, quant'è alta la musica, Peter. Eccoci qua, sì, ho avuto un attimo uno sfondamento di timpano. Allora, siamo qui non per parlare dei trasferimenti alle Canarie. No, ma no. Non per parlare degli anziani che sono pronti ad andare in pensione. No, ma per parlare invece dei giovani e dei figli. Esatto. E per parlare di tutti gli aiuti che così scompongono. Prima abbiamo usato questo termine, ho usato, me ne assumo la responsabilità, questo termine di coacervo. Un mosaico. Perché, sì, però il mosaico presupporrebbe qualcosa di ordinato. Invece a me, come prima cosa generale, ma chiedo conferma a Matteo Prioschi, che è un esperto vero della materia, mi sembra, dicevo, che questo insieme di misure tra i bonus bebè, i bonus per l'asilo nido, il sostegno alla disoccupazione, nascita, premio alla nascita, eccetera, quello per il latte, siano abbastanza complicati da seguire, cioè sono ognuno una procedura diversa, ognuno ha regole diverse, ognuno ha, quando le ha, livelli, limiti di ISEE diversi, e quindi per ognuno bisogna istruire una pratica differente. È così, Matteo, esatto, me lo confermi? E poi aggiungo un'altra cosa, qualcuno convive anche con un altro, magari è possibile chiederne un paio contemporaneamente escludendone un terzo, per cui c'è questa ulteriore complicazione. Sì, sì, in effetti è così la situazione, cioè è una sorta di puzzle che ognuno deve comporre in base alle proprie esigenze, e diciamo che questo risponde a una necessità anche da parte dello Stato di dare i soldi a chi effettivamente ne ha bisogno, anziché dare un assegno globale, anche se in teoria è quello che si vorrà fare in un prossimo futuro. Però si promette per il 2021, così sì, esatto, tranquillizziamo già gli ascoltatori, non sarà cosa dei prossimi mesi. Però ad oggi appunto c'è questo, diciamo, mix di misure che sono in parte simili, in parte diverse, che quindi obbligano, diciamo, la famiglia a capire quali necessità ha e quali strumenti ha a disposizione, quindi poi attivare le procedure e così via, e seguire su più fronti, diciamo, gli aiuti di cui può beneficiare. Appunto, l'avete già accennato voi, c'è quello semplicemente a fronte del parto, il bonus alla nascita. Non l'hanno ritoccato, c'è ancora, no? Che sono 800 euro una tantum, quello c'è, non è stato toccato. Che viene toccato quest'anno, ci sono delle novità, sono il bonus bebè, il bonus asilo nido, che diventano un po' più ricchi rispetto al passato. Perché complessivamente per tutto questo la manovra stanzia 300 milioni di euro in più rispetto a quanto già previsto per lo scorso anno, perché sicuramente la dote finanziaria è un po' più importante, quindi si riesce a fare qualcosina di più. E come cambiano i due bonus che hai citato? Allora, sostanzialmente il bonus asilo nido resta sostanzialmente uguale, ma diventa più ricco. Cioè già prima lo potevano richiedere tutti intendo chi ha dei figli che vanno all'asilo nido, oppure hanno comunque fino a 3 anni e hanno delle disabilità gravi, per cui non mandano i figli all'asilo nido ma devono attrezzare l'abitazione. Quindi già questo era disponibile, resta uguale, però aumentano gli importi, perché fino all'anno scorso era 1.500 euro all'anno per tutti. Quest'anno resta 1.500 euro all'anno per chi ha un ISEE oltre 40.000 euro, diventa di 2.500 euro all'anno se l'ISEE è oltre 25.000 e fino a 40.000, e diventa di 3.000 euro, quindi il raddoppio rispetto all'anno scorso, per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro. Peraltro ricordiamo che l'ISEE va ripresentato tutti gli anni. Esatto, stavo proprio per fermarti su questo punto, perché gennaio è il mese per cui bisogna attrezzarsi, esatto, per l'ISEE, quindi andare ad esempio a un CAF e farsi istruire tutta la pratica. Esatto, farsi fare il calcolo, la DSU, che è il documento da cui poi viene la dichiarazione sostitutiva unica, da cui poi viene elaborato l'ISEE, e sulla base di quello si ha l'accesso a una gran parte dei servizi, diciamo, sociali o comunque aiuti alla famiglia e non solo. Quindi l'ISEE è fondamentale, e peraltro appunto, siccome ad esempio il bonus asilo nido è triennale, la stessa INPS a fine del 2019 ha ricordato agli smemorati che alcuni evidentemente non si erano ricordati, premurati, di rinnovarlo nel 2019, e all'INPS risultavano una serie di bonus, diciamo, rimasti scoperti, no? Chi l'aveva chiesto in passato e dopo secondo loro aveva ancora diritto, perché magari il figlio aveva 2 anni, 2 anni e mezzo, ma non ha più rinnovato l'ISEE, non c'era più la possibilità di pagarglielo. Quindi la raccomandazione appunto è: rinnovatelo tutti gli anni, rinnovate la pratica, perché sennò il bonus triennale in questo caso va perso. Perdersi. E tra l'altro, una volta che ci si dota appunto dell'ISEE, dove si deve andare per avere questi incentivi dei quali si parla questa mattina? Bisogna fare una domanda al comune, a chi deve essere inoltrata, all'INPS? Questi due sono gestiti dall'INPS, ormai l'INPS tutte diciamo, le procedure sono informatizzate, magari appunto ci si perde un po' di tempo chi non è pratico con carte e documenti, e che eventualmente si può far assistere dei CAF, dei patronati, in base al tipo di... Però, diciamo, il massimo che serve l'ISEE, non è che serve sostanzialmente quello oltre, lì. Oltre a dover fare una compilazione di documenti che riguardano la nostra famiglia, quindi quantomeno lì dovremmo essere attrezzati con le informazioni. Ma guarda, mi hai letto nel pensiero, perché io sto twittando, cioè mettendo sul Twitter, dentro nel Twitter, la pagina dell'INPS che riassume un po' le varie prestazioni a sostegno del nucleo familiare. Questo naturalmente non risolve nulla, ma almeno uno si fa un'idea, perché è difficile anche in una mezz'ora riuscire a riepilogare tutto l'insieme delle regole differenziate. Ti abbiamo fermato sul bonus bebè, cioè i nuovi nati, che invece quest'anno ha una delle novità, è un po' più ricco. La novità di quest'anno è che diventa universale sostanzialmente, cioè fino all'anno scorso era limitato alle famiglie con un determinato ISEE, quest'anno invece viene riconosciuto tutti, e in parte appunto vengono rimodulati gli importi. Resta invariato per le famiglie in condizione più disagiata, cioè chi ha un ISEE fino a 7.000 euro continuerà a percepire 1.920 euro all'anno. Per quelli da 7.000 a 25.000 euro di ISEE si passa da 960 a 1.440. E per quelli di importo superiore è sostanzialmente la nuova platea che viene raggiunta da questo strumento, perché l'anno scorso appunto ci si fermava a 25.000 euro, adesso da 25.000, oltre 25.000 fino a 40.000 euro di ISEE si riceverà 1.440 euro, e oltre 40.000 euro si riceveranno 960 euro al mese, 960 euro all'anno, 80 euro al mese. Quindi sostanzialmente c'è un decrescere dell'aiuto al crescere del reddito, come è abituale spesso in queste, però, in queste misure. Però appunto la novità è che viene riconosciuto, diciamo, anche ai più abbienti, perché però non scompare mai, perché di solito i redditi più alti vanno esclusi, spesso anche non così alti, perché a volte si parla anche di ISEE molto contenuti, spesso dice i redditi più alti vengono esclusi. In questo caso non è così da quest'anno, cioè questo riguarda i nati dal primo gennaio scorso, e anche bambini nati e adottati, giusto? Adottati o in affido o preaffido, insomma. Allora, 800 24 00 24, fatevi avanti se avete delle domande su tutte queste novità delle quali stiamo parlando questa mattina. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi, sms o whatsapp. Un ascoltatore dice: ma perché tutte queste procedure? Beh sì, immaginiamo che dovendolo descrivere in tutta in tutte quelle che sono contenute nella manovra di bilancio, forse possono sembrare delle questioni complicate. In realtà ISEE e basta, non mi sembra particolarmente complesso la procedura, forse quello per l'asilo nido potrebbe per essere. Per l'asilo nido lì appunto c'è eventualmente la ricevuta di quanto pagato, poi se il bambino non è ancora iscritto bisogna presentare invece la dichiarazione che comunque è stato accettato dalla struttura. Sì, ci sono un po' di passaggi da fare, ribadisco, il concetto è sempre quello di dare i soldi a chi effettivamente ne ha bisogno. È vero che lo Stato molte informazioni ce le ha già, ma è anche vero che appunto spesso le banche dati poi non comunicano tra loro quelle in possesso dello Stato, e quindi il cittadino è chiamato, diciamo, a ribadire, a fornire ulteriormente informazioni che in parte l'amministrazione potrebbe già reperire per conto suo. Su questo, per carità di patria, mi fermerei un istante, anche perché pure nel 2020, al 45esimo minuto, davvero? Sì, ti vedo già lì, bello agguerrito. L'arbitro fischia il traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che iscriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Promo 24. Appuntamento al GIC, Giornate Italiane del Calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo, alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. Due di denari. E comunque sono estremamente felice che siano finite le feste, perché tutta una settimana intera senza la pubblicità di Poltrone Sofà, cazzarola, era un po' triste. Finalmente rimaltellano tutte le reti televisive, radio, compagnia bella. Deo grazie. E vabbè, adesso facciamo pubblicità anche a loro, dopo Amazon. Ognuno ha i suoi motivi. Beh, non credo che abbiano bisogno di ulteriore pubblicità. No, infatti. No, dicevo, ognuno ha i suoi motivi per essere felice. Sì, allora. Volevo rispondere a una, cioè precisare una cosa, a una ascoltatrice che, credo sia un'ascoltatrice, sì lo è, che ci scrive via SMS, quindi 349-238-6666, che è il numero per porre domande SMS o anche WhatsApp, mandare messaggi pure vocali. Dice: ma come, non era stato annunciato che c'era l'asilo gratis per tutti? No, l'abbiamo ricordato in apertura proprio di programma e chiediamo conferma a Matteo. Era stata un'indicazione politica generale del governo, però poi, diciamo, fatti i conti e verificato come doveva stare in piedi la manovra, tra evitiamo l'aumento dell'IVA, rimandiamo qualche clausola di salvaguardia all'anno dopo, eccetera, eccetera, questo asilo nido gratis per tutti non c'è stato più. No, ma no. Non c'è forse mai stata, però, questa misura, non è mai esistita. No, tecnicamente non è mai esistita, se ne è parlato, ma peraltro sugli asili nido, cioè, c'è un problema strutturale, nel senso che dire asili nido gratis per tutti, il problema è che ci dovrebbe essere posti per tutti, e ad oggi in Italia non ci sono posti sufficienti, quindi è uno dei grossi limiti. Il bonus asilo nido ad oggi viene erogato praticamente alla quasi totalità, se non alla totalità delle persone che fanno domanda. Il problema è che ci sono circa 400.000 nati all'anno, 440 siamo al minimo storico, no? E i posti disponibili sono circa 300.000, certo. Avevamo fatto noi un conto tempo fa. E quindi infatti Michela Finizio e Valentina Melis nel servizio che è oggi sul Sole 24 Ore ricordano che i posti disponibili negli asili nido sono uno ogni quattro bambini, grosso modo. Esatto. Quindi più che certo, se fosse gratis, per carità, ben venga. Il problema poi è trovare il posto anche a tutti, perché se dopo lì c'è una discriminazione tra chi ci va gratis e chi proprio non ha neanche la possibilità di andarci. Assolutamente. Allora, lo segnalavamo anche all'inizio, un'altra novità introdotta dalla manovra è il fondo per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno, rivolto alle donne affette da patologie che impediscono l'allattamento al seno. Il contributo può arrivare a 400 euro per neonato e in ogni caso fino al compimento del sesto mese di vita dello stesso bambino. Il fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per quest'anno e di 5 milioni a partire dal 2021. Non abbiamo i dettagli rispetto alle technicality, come dire, ai criteri per fare la domanda per questo, ma immaginiamo che sia sufficiente che un pediatra attesti appunto l'impossibilità per una mamma di allattare e quindi possa chiedere appunto questo contributo per 6 mesi. 400 euro a neonato, che poco non è. Ecco, a proposito comunque di istruzione, anche per quanto riguarda il bonus bebè e il bonus asilo nido, ricordiamo che appunto dovranno essere recepite innanzitutto dall'INPS queste novità, quindi arriverà la solita circolare, daranno le istruzioni su come fare, perché è tutto analogo all'anno scorso ma non propriamente uguale, no? Cioè solo perché cambiano gli importi e i parametri di riferimento. Davide da Pescara: noi abbiamo una bimba di quasi 4 anni, possiamo ancora chiedere il bonus? Che viene erogato fino ai 3 anni. No, perché fino ai 3 anni e quindi in teoria no. Quindi perché immagino che vada all'asilo e non più asilo nido. Infatti, e quindi è fuori. Quindi sta nel passaggio e non ha diritto al bonus, così come non so, nati nel 2019 hanno, mi immagino, il bonus calcolato vecchia maniera e non con i nuovi importi del 2020. No, allora in teoria sull'asilo nido dovrebbe essere, essendo annuale, vedremo cosa decideranno poi, come interpreteranno la norma, però dovrebbe essere quest'anno applicato gli importi di quest'anno e quindi beneficiarne tutti delle nuove regole. Assolutamente. Diciamo. Andrea da Milano, domanda assolutamente pertinente. Noi ne diamo quasi un po' per scontato, diciamo, questo aspetto, perché parliamo di bambini, quindi parliamo di bambini che hanno diritto a questi bonus, ma Andrea solleva il problema della costituzione del nucleo familiare. Andrea, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Ci chiede Andrea. No, ecco, sì, no, la mia domanda è questa. Io ho una figlia e non sono sposato con la madre, e siamo entrambi residenti a Milano nella stessa casa con la bambina. E allora il mio reddito direi che è superiore alle soglie che ho sentito menzionare, soprattutto per il bonus bebè. Quello della madre è invece inferiore. Mi chiedevo però il nucleo familiare è unico, quindi se ho compreso bene. Il nucleo familiare è unico, sì, noi non siamo, conviviamo, non siamo sposati, non c'è un'unione di, adesso non sono particolarmente esperto di queste di unioni civili, ma comunque non c'è semplicemente una convivenza. Siete conviventi e basta. Grazie Andrea. Allora intanto Matteo. Una precisazione, le soglie ISEE non corrispondono al reddito dei singoli, perché l'ISEE prevede, cioè è un indicatore che tiene conto il patrimonio immobiliare, eventualmente abbattimenti, spese varie, e quindi comunque potrebbe essere non che si in parte, teoria un reddito esatto. complessivo sia molto alto, ma che l'ISEE poi l'ISEE si abbassi e quindi magari si appunto rientri in queste fattispecie, e quindi l'invito comunque è a fare un tentativo. Peraltro sul sito dell'INPS c'è un simulatore per cui abbastanza agevolmente uno a spanner riesce a capire se rientra o meno in che fascia di indicatori ISEE. Le altre indicazioni sono appunto che se la famiglia scusate, allora in questo caso in genere si fa riferimento all'ISEE minorenni. L'ISEE minorenni, se diciamo una famiglia, diciamo nucleo tradizionale, corrisponde all'ISEE standard. Se invece si tratta di famiglie in cui magari il padre è separato dalla madre, piuttosto che uno convive con altri, ci sono figli di precedenti matrimoni, allora occorre calcolare l'ISEE minorenni, che è in parte diverso. Appunto, a seconda delle singole situazioni bisogna fare i calcoli adeguati. Però noi possiamo rispondere ad Andrea, a tutti gli ascoltatori, non è impedito l'accesso, è solo che il calcolo dell'ISEE, cioè di questo tiene conto valore delle essenziale per sapere se si ha diritto o no, va parametrato diversamente. Cristian chiede al 349-238-6666, ma è sempre necessario, fondamentale, indispensabile presentare la dichiarazione appunto della nostra situazione economica complessiva equivalente, no? Mi pare che sia nella descrizione. So già di essere nella fascia più alta, posso evitare di farlo? No, non credo. No, va comunque presentato. Anche perché finora andava sempre presentato, poi vediamo appunto quest'anno come interpreteranno le norme, visto che il tema autocertificazione mi pare che non sia emerso da nessuna, parte. Finora no, ad esempio quest'anno il bonus bebè diventa universale, uno dice guardate io guadagno, cioè ho un ISEE più di 40.000, mi autodichiaro ricco e quindi pretendo solo di incassare 960 euro, dubito, però stiamo a vedere come interpreterà la norma. Posso dire che le università in casi simili, cioè quando uno dice no ma io sto sopra comunque le fasce che voi agevolate, esonerano i genitori dal presentare alcunché. Uno basta che semplicemente paghi. Dichiara, sì, dice vabbè, ma se tu accetti di pagare la retta più elevata, perché impedirtelo? Certo, l'ultima considerazione Matteo, abbiamo un minuto di tempo, ma ricordiamo anche che nella manovra di bilancio è previsto che salgano a 7 giorni quelli appunto previsti dal congedo obbligatorio di paternità. Sì, un'altra novità di quest'anno, praticamente è stato prorogato per l'ennesima volta il congedo obbligatorio di paternità introdotto nel 2012. La proroga è stata fatta solo per un anno, quindi vale solo per quest'anno, ed è stato portato a 7 giorni il periodo minimo di assenza dal lavoro, vale per tutti i lavoratori dipendenti e purtroppo solo il comparto privato, perché anche qui la burocrazia italiana, comparto pubblico, per recepire la norma originaria che è del 2012, serve un provvedimento al Ministero che non è stato ancora fatto. Quindi nel comparto pubblico il bonus, cioè il congedo parentale obbligatorio non si può ancora fruire del genitore secondo, diciamo, sì, esatto, perché può essere il padre o genitore secondo, insomma, sì, certo, non si può ancora fruire, mentre gli altri quest'anno possono avere 7 giorni più un aggiuntivo se la madre rinuncia a uno dei suoi. Avremo chiarito le idee, secondo te lo avremo confuse ulteriormente? Noi intanto vi possiamo dire che sul sito potete riascoltare, sì, quanto è stato spiegato dall'inizio alla fine, anche tornare indietro, www.radio24.it, cercate nella sezione dei podcast, nella sezione dei programmi il nostro programma e lì riascoltate la puntata. E risegnaliamo anche pagina 2 del Sole 24 Ore di oggi, che è assolutamente molto dettagliata, precisa e completa. Grazie a Matteo.